giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una frana in Cadore causata da un nubifragio interrompe i collegamenti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, impraticabili le strade regionali 355 e 465 per presenza di detriti sulla carreggiata. L'unica arteria percorribile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno. A Trieste, nel rione di Campanelle, caccia al piromane che ha incendiato 8 auto dagli inizi di luglio, la preoccupazione dei residenti. Turismo a Lignano, il calo è del 10-15% secondo le stime di Confesercenti, a diminuire soprattutto le presenze dalla Germania. Smorza i toni, Confcommercio. Le Olimpiadi di Parigi nell'inseguimento a squadre per l'Italia, protagonisti Milan con Sonny, Ganna e Lamon. Oggi in palio la medaglia di bronzo con la Danimarca. Spera nel ripescaggio la mezzofondista friulana Sinta Jeuvissa, ultima chance per avanzare nella semifinale dei 1500 metri. Ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani ed Elisabetta Zaccone in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Un temporale, un forte temporale nella notte al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ha causato una serie di frane. La prima ha interrotto la strada 355 a Sappada in località Acquatona. Un'altra è caduta sulla 52 Carnica in località Sega di Gon. Una terza aveva isolato Borgata Palù. Rilevante pure lo smottamento lungo la strada che porta alle sorgenti del Piave, sempre a Sappada. Interrotta pure la strada regionale 465 di Forcella Lavardette da Pesaris, sempre per una frana. Una trentina agli interventi dei vigili del fuoco che hanno impegnato tutti i volontari della zona per gestire l'emergenza. Due strade regionali, la 355 e la 465, la ex provinciale 22 della Val Sesis, chiuse da questa notte per importanti colate detritiche sulla carreggiata. Bloccata la viabilità tra Sappada e Santo Stefano all'altezza dell'Acquatona e in località Rio Bianco in alta Val Pesarina. Temporali forti che si sono scatenati intorno alla mezzanotte hanno prodotto piogge intense e raffiche di vento sostenute. Si sono registrati 50,4 mm nella località di Pian di Luzza, di cui 49,2 mm in meno di un'ora, 42 mm a Sappada e 39 mm nello stesso arco temporale a Pesaris, eventi che secondo le analisi dell'ARPA FVG avvengono ogni 20-30 anni, quello avvenuto a Sappada, 10-15 anni a Pesaris. Andrea Mocchiutti, geologo. 50 mm, che non sono tanti, ma in pochissimo tempo possono mettere in crisi solitamente rii in montagna dove c'è moltissimo accumulo di detrito. In pratica tanta pioggia in poco tempo mobilizza questo detrito e crea una colata che nel giro di pochi minuti raggiunge poi il fondovalle. Queste cose possono accadere, anzi saranno sempre più frequenti dati i cambiamenti climatici in corso e anche al fatto che abbiamo una montagna molto delicata da questo punto di vista. E perché le montagne particolarmente fratturate con molto detrito lungo i versanti possono dare adito da noi e anche in zona dolomitica a questi fenomeni che sono, ahimè, abbastanza frequenti. Un evento, quello di questa notte, che ha riversato sulle strade dai 3 e 4 mila metri cubi di materiali, eventi che nei prossimi giorni potranno ripetersi e che potranno interessare anche la pianura. Intanto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine assieme a quelli di Belluno e il personale di FVG Strade, che sta lavorando per la messa in sicurezza di una della 355 che mette in collegamento il Friuli Venezia Giulia con il Cadore. Anche la stazione di Sappada del soccorso alpino è stata chiamata dal comune di Sappada a supporto delle operazioni di verifica dell'eventualità che avrebbe potuto coinvolgere dei veicoli, ed è per questo che i soccorritori della stazione, 5 tecnici, si sono portati sullo scenario per calarsi lungo la via ferrata che scende nell'orrido dell'Acquatona per effettuare dei controlli fin dove è stato possibile, verificando che nessuna auto era stata coinvolta. Sappada, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è molta preoccupazione tra i residenti del rione di Campanelle a Trieste, dove dagli inizi di luglio sono state incendiate 8 automobili, le ultime 3 all'alba di martedì, ed è caccia al piromane. Prima gli scoppi che hanno svegliato i residenti, poi il rapido propagarsi delle fiamme, erano le 5:20, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Bilancio, 2 le vetture incendiate in via Costalunga, la terza nella vicina via d'Alessio. Sull'accaduto indaga la mobile della questura di Trieste. La pista del dolo è quella più probabile. Chi ha agito ha dapprima rotto il lunotto posteriore delle vetture, poi ha presumibilmente versato liquido infiammabile sui sedili posteriori. All'inizio di via Costalunga i vetri rotti e i segni del rogo sono ancora ben visibili. Non è il primo caso, a inizio luglio in zona hanno preso fuoco altre macchine. I residenti sono preoccupati. C'è chi non nasconde il fatto che si sente meno sicuro e auspica più telecamere di sorveglianza in zona. Ha detto a mio figlio che ci sono stati altri 2 incendi sempre in campanelle, 2 o 3, ma non, io non ne sapevo nulla. Pensa sia un episodio di delinquenza? Ah beh, Dio, certo che sarebbe bello poter avere delle videocamere anche noi qua, addirittura nel condominio. Le videocamere più vicine, quelle del centro di salute mentale della Maddalena, ma malfunzionanti. Una zona, quella di via Costalunga Alta, che con la modifica alla viabilità ed una visibile riqualifica urbanistica e residenziale risulta più vivibile. Oggi meno macchine in strada e qualche preoccupazione in più. Trieste, Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 29 anni, un cittadino marocchino, è stato condotto nel centro di permanenza per i rimpatri di Gardisca di Sonzo ed espulso dopo che il 1 agosto scorso era stato arrestato nel corso di controlli straordinari alla frontiera. L'uomo, a bordo di un autobus sloveno, stava rientrando nel territorio nazionale attraverso il valico di Rabuiese in violazione di un precedente decreto di espulsione emesso dal prefetto di Milano con divieto di rientro prima dei 5 anni. Giudicato con udienza direttissima il 2 agosto, è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, scarcerato e nuovamente espulso con l'accompagnamento al CPR, dove sarà trattenuto sino al rimpatrio. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 28,5 gradi con mare poco mosso, temperatura di 27,5 gradi. A Udine 29 gradi, a Pordenone 29,5 gradi, a Gorizia 31. A Piancavallo 21 gradi, a Tarvisio 22, a Forni di Sopra 22,5 gradi, a Tolmezzo 25 gradi. Sul Monte Lussari 18 gradi, sul Monte Zoncolan 20, a Grado 27,5 gradi, a Lignano 29 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi pomeriggio avremo probabili rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, in successiva estensione verso la pianura e la costa. Temporali che potranno essere localmente forti. Sulla costa soffierà brezza. E ora parliamo di turismo, tornando sulla denuncia di Confesercenti di Lignano. Decenni di mancata programmazione stanno facendo perdere turisti, soprattutto tedeschi e austriaci. Smorza i toni, Confcommercio. A lanciare l'allarme era stata Confesercenti, meno 10, addirittura meno 15% di presenze turistiche quest'anno a Lignano, un dato che suona in controtendenza rispetto agli ottimi risultati macinati negli ultimi anni dal settore terziario regionale. La situazione in realtà è più sfumata. La pressione è dovuta soprattutto alla minor quantità di turisti in arrivo dalla Germania, complice la crisi economica della locomotiva d'Europa e quindi una minor possibilità di spesa del turista medio tedesco. Un calo non adeguatamente compensato dal maggior numero di villeggianti arrivati dall'Europa orientale, in particolare Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Un discorso che cambia anche a seconda della tipologia di struttura. Tengono di più gli hotel che hanno negli ultimi anni saputo rinnovarsi sia dal punto di vista strutturale sia per quanto riguarda i servizi offerti. Soffrono invece maggiormente gli alberghi più datati. E il fenomeno non riguarda solo Lignano e il litorale friulano, ma più in generale tutta quanta la costiera adriatica, da Grado fino alla Romagna, sottolineano da Confesercenti, che chiede comunque che sia ripensata l'idea di turismo lignanese nell'ottica di una maggiore destagionalizzazione e più diversificazione per quanto concerne i mercati di riferimento. Per Confcommercio l'allarme è eccessivo, la flessione non può essere negata, ma c'è ancora possibilità di ripresa lungo tutto il mese di agosto fino alla metà di settembre. La regione da parte sua sottolinea comunque un incremento delle presenze turistiche in tutto il Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno, più 2,3%, raggiungendo quota 3,9 milioni di turisti. Lignano Sabbia d'Oro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Monfalcone ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR regionale che lo scorso giugno ha depositato la sentenza che annullava le ordinanze riguardanti i luoghi utilizzati per la preghiera. Il ricorso era stato presentato dai centri Baitus Salat e Darus Salam. La pagina Facebook Protezione Civile di Monfalcone, attiva da diversi anni, è stata hackerata, rendendo impossibile la pubblicazione di materiale informativo utile ai cittadini. È stata creata immediatamente una nuova pagina Protezione Civile di Monfalcone per consentire lo scambio di informazioni con la cittadinanza. Ora la segnalazione alla polizia postale, specifico, sottolinea Andrea Olivetti, coordinatore del gruppo, che la vecchia pagina non è più un canale di informazione attendibile e qualificato e di conseguenza tutto ciò che verrà pubblicato su tale pagina non sarà più in alcun modo riferibile all'ente e al gruppo dei volontari della squadra di protezione civile di Monfalcone. Ora parliamo di animali abbandonati e di rinunce in una città, Trieste, storicamente molto attenta alla tutela dei nostri amici a quattro zampe, anche grazie ad un rifugio fondato nel 1960 dalla baronessa Maria Nora Economo. Stiamo parlando dell'Astad Opicina. L'abbandono degli animali domestici è una piaga che non accenna a diminuire. Le associazioni animaliste stimano dai 45.000 ai 50.000 casi di abbandono ogni anno in Italia, il 25-30% proprio nel periodo estivo a causa della difficoltà di trovare soluzioni per la cura degli animali durante le ferie. Lo scorso anno, afferma l'ENPA, il fenomeno è aumentato del 20% rispetto alle due estati precedenti. Eppure le alternative non mancano tra alloggi, spiagge, hotel pet friendly, dog e cat sitter. A Trieste anche l'associazione Astad, fondata nel 1960 dalla baronessa Maria Nora Economo e basata sul volontariato, si prende cura di animali abbandonati nel rifugio d'Opicina che ospita poco più di 200 tra cani e gatti, affidati alle cure di 7 dipendenti e di una trentina di volontari. Massimiliano Feruga è uno di questi. Le difficoltà ormai da un paio d'anni a questa parte sono le stesse, è un sacco di rinunce, infatti noi riceviamo ogni settimana svariate richieste di abbandono da parte di famiglie o proprietari che non sono più in grado di gestire il loro animale domestico. Prendersi cura degli animali ha un costo di circa 300.000 euro all'anno che arrivano tutti da donazioni di privati. Sono soprattutto gli animali anziani quelli più bisognosi. Negli ultimi anni abbiamo colto anche un sacco di cani anziani. Anziani vuol dire over 14 o 15 anni. Cani che poi arrivano su magari già con delle patologie, con dei problemi di salute, che noi, grazie ai nostri veterinari anche che ci seguono, cerchiamo insomma sempre di risolvere e curare. Le associazioni animaliste quindi continuano a portare avanti le loro campagne di adozioni. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. È Anna Micelli, sindaca di Resia, la nuova presidente dell'ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Nei giorni scorsi è stata eletta dal consiglio direttivo e succede ad Annalisa Di Lenardo, che è rimasta al vertice dell'ente per 5 anni. La legge istitutiva del parco prevede che il presidente venga scelto fra gli amministratori dei 6 comuni interessati dall'area protetta, ovvero Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutte e Venzone. Anna Micelli ha sottolineato l'importante ruolo che il parco gioca per il territorio interessato e ha evidenziato come il suo impegno sarà rivolto in particolare a dare sostanza a una visione che vede il parco come protagonista nella coesione e nella crescita delle comunità locali. Un parco, ha detto, che oggi più che mai ritorni a essere volano per le comunità che lo costituiscono, che in termini concreti possa sostenere la vita delle persone in montagna, affinché le comunità restino vive e facciano vivere l'area protetta, custodendo e tramandando i valori che la contraddistinguono. Pordenone Legge al via dal 18 al 22 settembre prevede 340 incontri oltre 600 protagonisti. Sono 59 le anteprime di autrici e autori italiani internazionali che hanno scelto di presentare il loro libro per la prima volta al festival. Lo scrittore e giornalista Gareth Rubin è attesissimo con il nuovo Sinister, la città delle ombre, reinvenzione di 2 personaggi entrati nel mito, il geniale investigatore Sherlock Holmes, la sua nemesi, il professor Moriarty. A Pordenone Legge grandi voci al femminile da tutto il mondo, la scrittrice Sasha Vasiliuk, cresciuta tra Ucraina e Russia prima di emigrare negli Stati Uniti, presenterà il suo romanzo d'esordio Il vento un impostore, storia di una famiglia stretta tra due regimi totalitari. La giapponese Hiroko Hoyamada farà tappa con Donnole in soffitta, legato agli aspetti più discussi della società giapponese contemporanea. La spagnola Rosa Montero, con il pericolo di essere sana di mente, offrirà uno studio appassionante sui legami tra creatività e instabilità mentale. L'autrice nigeriana Abida Re, dopo il successo della Ladra di parole, torna poi con Un grido di luce, storia appassionante di amicizia e solidarietà femminile. E la francese Camille De Peretti, con La sconosciuta del ritratto, racconterà una magistrale saga familiare schiusa dal celebre ritratto di Gustav Klimt. Conto alla rovescia per la Maker Fair Trieste, 2 giorni di festa dell'ingegno, della creatività, della scienza e tecnologia nel centro di Trieste sabato 31 agosto e domenica 1 settembre in Piazza Unità. Sarà un weekend di inventori, maker creativi con progetti, dimostrazioni, esperimenti, attrazioni e curiosità tecnologiche. In questa 11ª edizione 2024 Maker Fair vuole anche celebrare il 60° anniversario dell'ICTP, il Centro Internazionale di Fisica Teorica che ha sede a Miramare e che fu fondato dal premio Nobel Abdus Salam nel 1964. Per questo motivo incorpora al suo interno il Science Picnic, un settore dedicato alla scienza interattiva, con incontri con ricercatori, esperimenti, spettacoli e laboratori didattici. Già aperte le iscrizioni della Call for Maker, il bando rivolto a maker, inventori, creativi, artigiani digitali e tradizionali, studenti e cittadini amanti della tecnologia e appassionati del fare di ogni provenienza, italiani e stranieri. Trieste Science Plus Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre a Trieste, svela il poster dell'edizione 2024, un'illustrazione originale realizzata dal fumettista Zero Calcare. Il poster di questa edizione del festival illustra le sfide e i timori evocati dall'avvento dell'intelligenza artificiale generativa. Lo sport con le Olimpiadi di Parigi, l'Italia in finale per il bronzo questo pomeriggio alle 18.30, la sfida del quartetto Jonathan Milan, Filippo Ganna, Simone Consonni e Francesco Lamont sarà contro la Danimarca, dopo che in semifinale è stato battuto dall'Australia, registrando il quarto tempo a 2,5 secondi dai loro avversari diretti. È stata una semifinale senza storia, con gli australiani capaci di battere il record mondiale ottenuto dall'Italia 3 anni fa. Quando gli avversari vanno più forte, c'è poco da fare anche per i campioni olimpici uscenti. Indubbiamente Jonathan Milan e i suoi 3 compagni, Lamont, Consonni e Ganna, speravano nell'accesso alla finale dell'inseguimento a squadre, ma sono stati battuti dall'Australia, che ha fatto segnare il nuovo primato del mondo, sottratto proprio al quartetto azzurro. Questa volta gli uomini d'oro hanno alzato bandiera bianca. I canguri sono stati formidabili fin dalla partenza. La sfida è rimasta in equilibrio per 600 metri. Già al primo chilometro lo scarto è risultato di 7 decimi. 1 secondo e 2 al secondo chilometro, 2 secondi al terzo chilometro, nel quale gli australiani sono andati ancora più forte, 2 secondi e 47 centesimi al traguardo. Un divario che spiega bene la differenza fra i due quartetti. Hanno perso una finale per loro, hanno perso il record del mondo. Però, insomma, di fronte a questi numeri dobbiamo solo dire bravi all'Australia. Noi analizzeremo le cose, però quando si vince in 4 e quando si perde in 4. Però abbiamo una finale, terzo e quarto posto, ce la dobbiamo giocare. Ed è andata bene perché l'Italia ha comunque conquistato l'accesso alla finale per il bronzo contro la Danimarca e la replica di 3 anni fa. Perché il regolamento prevede l'accesso alla finale per il bronzo dei 2 migliori tempi, incluse le sfide dei quartetti che non si giocavano l'accesso alla finale per loro. Italia 3, 43 secondi e 205 millesimi, Nuova Zelanda 3, 43, 776, mezzo secondo di differenza. Contro i danesi sarà durissima, perché in semifinale hanno fermato il cronometro a 3, 42, 803. Milan e compagni si dovranno superare per salire sul podio. Appuntamento dopo le 18.30. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Miglior prestazione personale ieri per la mezzofondista Sinta Ioevissa, atleta di Pozzecco di Bertiolo in provincia di Udine, impegnata alle Olimpiadi. Il risultato le valso l'accesso al turno di ripescaggio che si sta svolgendo proprio mentre siamo in onda. Vissa, 8ª nella prima batteria, si è migliorata di quasi 1 secondo, tagliando il traguardo in 4 minuti e 8 decimi rispetto al suo precedente record personale di 4 minuti, 1 secondo e 66 centesimi. Causa indisposizione dell'autore, l'incontro di venerdì 9 con Marcello Veneziani è stato rimandato, se possibile, a data da destinarsi. Il noto giornalista scrittore ha accusato una febbre altissima che ha costretto l'organizzazione a rinviare, vista l'indisponibilità all'incontro nella nostra regione e in particolare a Grado. Confermati gli appuntamenti di oggi con Cecilia Gentile e domani con Nello Cristianini, una delle più autorevoli voci a livello mondiale sul tema dell'intelligenza artificiale, alle 18 al Velarium GT di Grado. Per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Mauro Comino e Caterina Cabrelli. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.